Non so quanti di voi abbiano seguito martedì scorso il microfono aperto che la radio ha dedicato all'incombente privatizzazione della AM, dell'azienda elettrica municipale. Era interessante ma un po' malinconico, nel senso che faceva tristezza sentire tutti quei bravi ascoltatori chiedere come mai a Palazzo Marino avessero deciso di alienare a prezzi sempre stracciati un'impresa che funziona benissimo e assicura utili ingenti, senza che nessuno, ma proprio nessuno, si degnasse di dar loro una risposta appena un po' articolata. E l'uomo del comune, che non ricordo chi fosse ma non era comunque persona da ricordare, era così sicuro di sé che non faceva nemmeno lo sforzo di rifarsi alla giustificazione corrente, quella per cui con i proventi dell'operazione si darà il via a una quantità di realizzazioni basilari, linee metropolitane, sistemazioni urbanistiche e ogni altro ben di Dio possibile. Un argomento che, oltre a contraddire l'antica massima dell'uovo oggi e della gallina domani, è naturalmente specioso perché nessun progetto preciso è stato approntato e le realizzazioni in questione sono state promesse ai milanesi, credo, già una dozzina di volte. E i tempi relativi comunque sono tali da eccedere le possibilità operative di qualsiasi giunta. Solo di pie speranze, in realtà, si tratta. Un articolo in cui è facilissimo largheggiare che tanto si vede poi. In un certo senso è come se fosse già cominciata la campagna elettorale. È toccato al buon Basilio Rizzo, mi sembra, spiegare come d'uso, e come d'uso senza destare un grande interesse, che sotto c'era qualcosa d'altro, che si trattava in gran parte di un problema di vocazione politica, che il sindaco e i suoi sentono come un proprio preciso dovere quello di trasferire alla mano privata i beni e i servizi pubblici, specie se redditizi, che è una spiegazione convincente ma forse non completamente esaustiva. In fondo i nostri amministratori non sono gli unici a predicare questa filosofia ed è facile immaginare cosa succederebbe alla AM se il comune fosse in mano all'Ulivo. Ma certo è difficile trovare in tutto il paese un ceto politico così attento all'utile di bilancio. La città di Milano, che io sappia, non ha un motto suo, ma sotto la croce rossa in campo argento del suo stemma ci starebbe bene un cartiglio con le parole fare cassa. E non è una mera questione di conti in ordine. Il pareggio a costoro interessa solo fino a un certo punto e loro vogliono l'utile. Nelle sue pacate invettive contro i tranvieri che mirano al modello Milano, Albertini non ha mai mancato di sottolineare come la TM, unica nel suo ramo in Italia, possa vantare un attivo di chissà quanti euro. Un risultato di fronte al quale poco o nulla gli importa che la velocità media dei mezzi pubblici a Milano sia la penultima in Europa. L'uomo, d'altronde, è fatto così. Per cultura, formazione e convinzioni non sembra capace di resistere all'idea del realizzo a pronta cassa, come logico per uno che il valore della città lo misura sul costo della vita. Uno che, avendo il comune acquistato a buon prezzo in passato un intero edificio adiacente alla Scala, che è una situazione irripetibile, è una proprietà preziosa per un'istituzione avida di spazi, decide, visto che i valori immobiliari in zona si sono trio quadruplicati, che bisogna venderlo a tutti i costi. E se la Scala in futuro avrà bisogno di quei locali, che s'arrangi. Tanto si sa che si può sempre sopraelevare la fabbrica del Piermarini. Anche la privatizzazione della AM in fondo risponde a quella logica. Il titolo, come si dice, è cresciuto bene, non è detto che continui a crescere in eterno, e dunque vendere subito. È la logica del realizzo che ben si addice a questa stagione di saldi. E anche, con rispetto parlando, una logica da bottegai. E mentre per i bottegai a saldi effettuati il problema è solo quello di rifare le scorte, non è detto che un ente pubblico, dopo aver dissipato un patrimonio costruito in un secolo di impegno civile, possa fare altrettanto. E mentre il comune potrà vantare un bilancio inattivo e potrà permettersi di investire le eccedenze come ha fatto la TM in bond Cirio o qualcosa di simile, i cittadini dovranno fare i conti con un nuovo ceto di monopolisti privati decisi a fargli pagare elettricità, trasporti, gas, acqua e tutto il resto, quanto gli parlerà e piacerà. E non saranno cavoli del sindaco, comunque lui non è più rieleggibile, si godrà la meritata poltrona a Strasburgo, e che Dio protegga l'Europa.